Ecco, abbiamo terminato con un momento cult del, momento, diciamo, del colpo grosso channel. E adesso dobbiamo dedicarci a un altro programma cult che non ci abbandona mai da quando abbiamo intrapreso l'avventura di Non aprite quella persiana. Un appuntamento classico e storico ormai con lo sport, diretto da nostro carissimo Paolo De Paulis, che ci condurrà nel mondo dello sport e nel mondo del calcio in particolare con questa nuova puntata di A Tutto Gol. Ah, che mangiata! Cari amici, bentornate a Tutto Gol, la trasmissione sportiva che sposta gli equilibri di tutte le fasi. L'equilibrio mentale sposta. E fatti serio, che tiene una certa età, tiene 40 anni. Regista, per favore, tua famiglia, se intelligenza finisce sotto i ponti, tu sai che... Ma già chiamato Mediaset, per favore, regista, baila, cubabba la d'urso, Ah, babbo. Va bene, andiamo avanti e torniamo al calcio locale. Come tradizione abbiamo in collegamento l'attaccante dell'Atletico Normanno, Pino Franchino. Ciao compa, buonasera. Era che allegria. Lascia sta che mi ha lasciato la guaglione, lasciamoci perdere proprio. Vabbè, ma parliamo di calcio. Allora, dopo un paio di mesi, come ti trovi in questa nuova realtà, diciamo, del Pollino? Ma ti posso dire che mi trovo molto bene dal punto di vista del campo, soprattutto con Ibrahimovic. Ma Ibrahimovic, io cacco buono! No, e me è Maruzzo Scellengato, e avuto il fisso e noi chiamiamo Ibrahimovic. Ah, si vede che la scherzina in testa. Ecco perché hai trovato problemi, diciamo, se hai trovato problemi. Sì, una volta è venuta a me trovare la fidanzata mia, no? E sono in giù spogliatoio, ma ha fatto sceso la mia. Ammazza, quelle corna che tiene va meglio di testa, dico, no, cosa promettete forse? Ma visti corna che tiene, ma io mi prometto di andare di testa al meglio, ci prometto 35 gol. Domanda, mondo valga, comunque hai da dire qualcosa, tu spiegati che hai a mangiare. Sì, tira botte. Cosa? Ciupa! Lo sapevo io, comunque mi rivolgo alla redazione, non voglio più queste tempere di merda, io non lo saggio.